farmi male. Da qui ti verrò a cercare, perduta in mezzo a un mondo che sta per crollare. Per sempre.